e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. No, non vi preoccupate, non avete sbagliato programma, siete a Cuore Denari, sono le 10.32, soprattutto Deborah e io non siamo sparite. No, assolutamente, anche perché se dovessimo sparire un po', spero che qualcuno se ne accorga, ci mancherebbe altro. Beh, io in quanto a stazza, se sparisco mi si vede, mi si nota per quello, ecco. Sono invece spariti i 14.000 campioni del DNA usati per studiare la longevità dell'ogliastra, un furto, lo leggiamo dai giornali, che è un vero e proprio mistero, e non sia per gli scienziati che per i carabinieri. Allora, in attesa di sapere quali saranno gli sviluppi dell'indagine, noi per fortuna possiamo consolarci con gli ultimi dati del rapporto Serva Salute, che sottolineano che in 13 anni i centenari sono più che triplicati. Pensate che è proprio un'italiana, Emma Morano, a detenere il duplice riconoscimento di decana d'Europa dal 2 aprile 2013 e dal 12 maggio 2016 anche decana dell'umanità. Voi raccontateci subito se avete un centenario in famiglia, raccontatecelo al numero verde 800 24 00 24, per condividere con noi e con il nostro prossimo ospite, il dottor Walter Longo, autore della dieta della longevità, che ci raggiungerà tra poco, le vostre ricette per vivere sani e a lungo. Allora, molto spesso per vivere sani e a lungo le scelte alimentari, le strategie alimentari fanno la differenza. Allora mi chiedevo, Deborah, ieri sentiamo, tu mi parlavi, no, di questo kit con pecorino, pomodoro e guanciale. Sì. Chissà se anche questi ingredienti faranno parte della ricetta della longevità che ci suggereva tra poco Walter Longo. Allora, sicuramente io, sono buone, sono e fanno bene. Fanno bene, è un mix che fa bene al cuore e ai denari, ed è certamente un mix che fa bene allo spirito se aderiamo a questa bella iniziativa che è stata avviata dalla CIA, Agricoltori Italiani, che ha promosso una raccolta fondi destinata all'aiuto delle aziende agricole colpite dal sisma del 24 agosto. Allora noi ci impegniamo con Nicoletta, l'abbiamo detto più volte, anche magari con delle micro notizie, a continuare a mantenere i riflettori accesi sulle conseguenze di questo terribile sisma. E allora, che cosa fa la CIA? Confagricoltori Italiani, la vendita di un kit comprensivo di ricetta per cucinare a casa le amatriciana, ma anche la gricia, e in questo caso saranno amatriciana e gricia solidali. Questo cofanetto speciale potrà essere acquistato al costo simbolico di 10 euro nei punti della Confederazione presenti al Salone del Gusto a Torino dal 22 al 26 settembre. Tu ci andrai perché farai l'alto sole. Sì, e vorrei che venissi con me. Me lo compri un kit? Sì. Ti do 10 euro. Anche nelle principali piazze italiane, grazie al circuito della spesa in campagna. Lo ribadiamo, i proventi di questa iniziativa saranno consegnati alle aziende entro l'inverno. Questa è la promessa della CIA. E allora speriamo che, visto che il presupposto di questa iniziativa è questa ed è così importante, speriamo che il dottor Longo ci lasci passare questo. Ah, sicuramente lo acquisterà anche regola. A lui. Se no glielo regaliamo noi, che dici? Lui ci porta i suoi libri e noi gli regaliamo il kit della matriciana. Allora, partiamo con le notizie di economia di questa mattina. Come sempre, un'occhiata all'andamento di borsa. Ieri è stata proprio una giornata pessima per i mercati finanziari europei, e poi curiosamente nel pomeriggio Wall Street ha permesso appunto che la tensione si smorzasse un po'. Addirittura ieri sul mercato americano c'è stato un vero rally con il Dow Jones, che ha chiuso la seduta con un rialzo dell'1,32%, lo Standard & Poor's più 1,47%. Pensate che ieri per Dow Jones e Standard & Poor's è stata la seduta migliore dall'8 luglio, per il Nasdaq dal 29 giugno. L'Europa invece ieri ha avuto una giornata pessima, stamattina ripartiva bene e adesso già è di nuovo piuttosto fiacca. Cosa succede? È sempre lì l'argomento. La preoccupazione per gli scenari futuri sui tassi di interesse, ma vediamo se ci dà un'analisi un po' più approfondita e migliore sicuramente della mia, Pietro Di Lorenzo, amministratore unico di SOS Trader, che salutiamo. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Allora, qua la partita si gioca sempre tra i falchi e le colombe delle banche centrali. Adesso sotto osservazione abbiamo quella americana, che tornerà a riunirsi il 20 e il 21 settembre. In questa occasione probabilmente non ci sarà nessun intervento sui tassi di interesse. Sono apertissime le scommesse su quando verrà fatto il prossimo aumento. Lei che cosa dice, Di Lorenzo? Le borse non lo vogliono questo nuovo aumento dei tassi e sono preoccupate. Ieri l'Europa l'ha detto chiaramente. Ma perché di un aumento dei tassi è più preoccupata l'Europa rispetto a Wall Street? Ma io credo che Wall Street abbia mandato un messaggio molto chiaro venerdì, c'è stato un ribasso repentino non appena sono uscite fuori indiscrezioni su un incremento anticipato a settembre dei tassi. I mercati sanno che questa sarà un passaggio fisiologico e, per come la vedo io, anche sano, perché vuol dire che l'economia statunitense sta ripartendo. È evidente però che mandano dei diretti messaggi ai governatori e alle banche centrali affinché questo venga fatto a dicembre, un piccolo incremento dello 0,25 debba essere in qualche modo scontato nei prezzi. Perché praticamente, se andiamo avanti così, faremo un aumento dello 0,25% l'anno, perché l'ultimo e il primo dopo tanto tempo è stato fatto proprio a dicembre scorso, no? Sì, il discorso secondo me è che ci sono le presidenziali negli Stati Uniti, è difficile che succeda proprio in concomitanza alle presidenziali, quindi si scavallerà questo momento. E poi con il nuovo presidente, nonostante la Fed sia un'autorità, diciamo, pro forma indipendente, si capirà un attimo qual è l'impostazione. Sta di fatto che, per come la vedo io, il momento dell'incremento dei tassi è stato procrastinato sin troppo a lungo. Nonostante i mercati non gradiscano, è opportuno per un equilibrio nel medio lungo termine che le politiche monetarie. Il mercato vuole certezza, forse si aspetta che la Fed dia un'indicazione precisa su quando questa manovra verrà fatta, di conseguenza anche i mercati probabilmente si renderanno un po' più sereni. Oggi, per quello che riguarda Milano, ricordo che il Tesoro mette in asta circa 8 miliardi di BTP, vedremo come andranno. Ieri abbiamo avuto il bot ad un anno con i rendimenti che sono ancora negativi, ma sono risultati in leggero miglioramento, lo 0,1750. Meno 0,24% adesso per il FTSE MIB, per cambiare anche stamattina di Lorenzo, teniamo sotto osservazione i titoli bancari, anche se tra i migliori vedo una situazione piuttosto eterogenea. Va bene il settore della moda, del lusso, Luxottica più 3,28, Yux Net-a-Porter più 1,33, Moncler più 1,31%, e poi Pop Milano più 1,26%. Proprio questa mattina è stato fissato il prezzo dell'eventuale diritto di recesso che potranno esercitare gli azionisti della Banca Popolare di Milano se nell'ambito appunto del progetto della fusione con il Banco Popolare. Ci può spiegare meglio questa operazione? L'ha letta anche lei, immagino? Sì, assolutamente sì. Confermo che la borsa milanese fa fatica, ma oggi, dopo una partenza positiva, siamo di nuovo sui minimi giornalieri. Scaldano solo il settore del lusso, che però per capitalizzazione non riesce a sostenere il listino. Le banche popolari sono un po' più vive. L'operazione a cui lei faceva riferimento è questa fusione con fra BPM e BP. Adesso, diciamo, siamo alle battute finali, qualora sono stati anche fissati i dettagli, quindi l'operazione partirà da qui a brevissimo e ci sarà naturalmente un allineamento dei due prezzi per una fusione definitiva da qui a pochi mesi. Ciò che si riscontra comunque è una debolezza endemica del nostro indice, che ahimè, nonostante le principali borse siano sui massimi, quindi DAX tedesco e S&P 500 sostanzialmente a pochi punti dai massimi, noi facciamo veramente una gran fatica e questo sicuramente non dà il sorriso ai risparmiatori, diciamo, locali, che a mio avviso dovrebbero anche però guardare per la capacità di guardare oltre confine opportunità che ci sono anche fuori dai nostri distinti. Allora, Saipem peggior titolo, meno 2% insieme a Buzzi Unicem. Tra i bancari, Ubibanca oggi se la passa male, perde l'1,24%, abbiamo un calo di un punto su Eni, quindi sotto pressione tornano i petroliferi. Poi Ferrari e Unipol che perdono circa lo 0,9%. Allora, prima di salutare Pietro Di Lorenzo, volevo segnalare ai nostri ascoltatori e tutti quelli che transiteranno su Roma, ma naturalmente ci possono andare anche tutti gli altri, intorno al 20 settembre, quindi verso la fine del mese, che SOS Trader organizza un evento molto interessante, si chiama Investing Roma 2016, è un evento didattico gratuito del Centro Sud Italia dedicato proprio al mondo del trading e dell'investing, per cui per chi non ha confidenza con i mercati finanziari sulle tecniche di investimento, Di Lorenzo, che cosa farete in quella giornata? Sì, il 30 settembre, venerdì, è una bella opportunità perché ci saranno 50 fra i migliori relatori in circolazione e ne avremo un po' per tutti i gusti, dai risparmiatori che amano il medio-lungo termine, a chi invece ama fare trading stretto, a chi vuole apprendere alle prime armi. Ci sono 5 linee didattiche adeguate a chi sostanzialmente ha cura e vuole aver cura del proprio risparmio. C'è anche un'iniziativa delicato, che si chiama Primi Passi, quindi questo tanto per dare l'idea che il salone è aperto anche proprio ai neofiti della finanza, no, Di Lorenzo? Esattamente, L'idea è sensibilizzare, soprattutto in momenti così complicati, di quanto sia importante prendere in mano il futuro il proprio futuro finanziario, e quindi non delegare sempre, o meglio delegare, ma anche con la consapevolezza di quello che si sta facendo. Quindi un'iniziativa che punta all'incremento della cultura finanziaria, un'iniziativa naturalmente gratuita, e quindi l'auspicio è che trovi il riscontro anche su Roma, che è una piazza tanto grande quanto poco battuta da eventi di questo genere. È vero, perché diciamo che è un po' la finanza sempre milanocentrica. Ricordiamo che ci si può iscrivere andando sul vostro sito, lo ricordiamo la modalità? Sì, molto semplice, www.investingroma.it, si riceverà un codice a barre via email e bisognerà semplicemente presentarsi con questa registrazione. E l'appuntamento è dalle 8.30 alle 18.30, ma naturalmente nulla toglie di assistere, diciamo, a parte dell'evento. Grazie a Pietro Di Lorenzo, amministratore unico di SOS Trader. L'appuntamento con Investing il 30 settembre a Roma, e naturalmente tutte le altre volte che lo ospiteremo a Cuore Denari per raccontarci la giornata finanziaria. L'anticipo pensionistico è per tutti, indipendentemente dalla gestione previdenziale, quindi vale per gli autonomi, per le partite IVA della gestione separata, vale per artigiani, commercianti. Se un pensionato ha 1.000 euro al mese e è meritevole di tutela, è disoccupato senza ammortizzatori sociali, fa lavori rischiosi, pesanti, faticosi, è in condizioni soggettive di bisogno perché magari ha a casa un disabile da assistere, in tutti questi casi il costo è semplice da calcolare perché il costo è zero. Il bonus fiscale coprirà non solo gli interessi e assicurazione, ma anche il capitale anticipato, quindi il reddito ponte non sarà pagato dall'individuo che riceve il bonus fiscale. Era Tommaso Nannicini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, durante un'intervista presa diretta, andata in onda ieri sera. E allora avete sentito da un po' di ragguagli sull'anticipo pensionistico che è stato di nuovo annunciato ieri in questo appunto incontro che si è svolto a Roma. Noi domani ci torneremo con il nostro amico Andrea Carbone di Progetica, con un focus proprio dettagliato a Cuore Denari, ma vi segnalo anche che questo sarà uno dei temi prossimamente della nuova collana I tuoi diritti del Sole 24 Ore, che però è in edicola già da oggi. Salvatore Padula, vice direttore del Sole, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno a tutti. Allora, il numero sulla pensione sarà in edicola il 1 novembre, lo segnalo, ma oggi si parte con che cosa? Oggi si parte con le tasse, col fisco, è un tema classico per il Sole 24 Ore. Cerchiamo di, con un linguaggio molto molto semplice, rivolto a un pubblico non specializzato, di aiutare i nostri lettori ad acquisire quel sapere minimo che consente di confrontarsi tutti i giorni con i problemi e i rapporti che via via abbiamo con la pubblica amministrazione, il fisco, ma anche con i nostri vicini di casa all'interno del condominio, oppure quando prenotiamo un viaggio e poi la vacanza non va esattamente come avremmo desiderato, oppure nei nostri rapporti con la banca. Quindi 10 puntate per 10 martedì. La prima oggi le tasse e poi via via tutti gli altri fino all'ultima, che sarà il 15 novembre, dedicata alla sanità, per capire come, per conoscere, per sapere e per capire come ci si deve comportare quando le cose non vanno esattamente nel verso giusto, ed è anche necessario appunto sapere come vanno difesi i nostri diritti. Grazie Salvatore Padula per essere trasparenti fino in fondo. Segnalo che queste guide, queste uscite appunto sono in edicola con il Sole 24 Ore, ma vanno pagate a parte rispetto al prezzo del quotidiano e costano 50 centesimi, se no magari gli ascoltatori si arrabbiano ed esercitano i loro diritti nei nostri confronti. L'ultima notizia, oggi e domani con il Sole 24 Ore c'è invece la guida ai master, quindi occhio per tutti gli universitari, le famiglie degli universitari, ma anche per i lavoratori che vogliono intraprendere un nuovo percorso di studio. Io ho dato tutte le mie notizie, Nicoletta, adesso siamo pronte con il traffico. E poi ci aspetta la ricetta della longevità per vivere non solo a lungo, ma soprattutto sani e a lungo. A tra poco. Cuore e denari. In un documentario realizzato dalla televisione franco-tedesca Arte, dedicato alle mie ricerche in Ecuador e in Calabria, mi hanno paragonato all'alchimista di Coelho, descrivendomi come il ragazzo che, partito da un piccolo paese europeo, ha girato il mondo alla ricerca della fonte di giovinezza. C'era un ragazzo che, come me, amava i Beatles e i Rolling Stones. Però, che biglietto da visita. Ti è piaciuto? Ma chissà se è piaciuto a lui. Perché quel ragazzo che è stato paragonato all'alchimista di Coelho oggi è uno dei leader nel campo degli studi sull'invecchiamento e alle malattie che a questo sono collegate, con pubblicazioni sulle più autorevoli riviste scientifiche, parliamo di Nature, di Science, di Cell. È ordinario di gerontologia e di scienze biologiche e direttore dell'Istituto di Longevità all'Università di Los Angeles, che è uno tra, direi, i più prestigiosi centri al mondo dedicati, pensate, esclusivamente all'insegnamento e alla ricerca sull'invecchiamento. Ma vogliamo dire che è anche direttore del laboratorio di oncologia e longevità all'Istituto di Oncologia Molecolare IFOM di Milano. Insomma, un bel bigliettone da visita, Deborah, lungo mezza pagina. E qua in studio è tornato a trovarci Walter Longo. Buongiorno, professore. Buongiorno, buongiorno, grazie per avermi riportato qua. Allora, era un po' scritto nella sua storia, nel suo DNA, parliamo di DNA, o nel suo destino, che dir si voglia, che si sarebbe occupato di longevità, considerato che il paese natale dei suoi genitori e dei suoi nonni, Molocchio, che è in Aspromonte, è uno dei luoghi con il più alto tasso di centenari al mondo. Leggo sul suo libro: 4 centenari su 2000 abitanti, il triplo di quello di Okinawa, che viene sempre citato, considerato il più alto al mondo per un'area di vaste dimensioni. Ma è stato poi durante il suo soggiorno americano, perché gli ascoltatori di Cuore Denare la conoscono, avevamo già raccontato, lei ha avuto una vita abbastanza avventurosa, sua mamma e suo papà sono stati dei genitori pazienti, le hanno dato molta fiducia. E preoccupati. Che lei ha deciso di occuparsi di longevità. È stato un po' come una folgorazione sulla strada di Damasco, dato che lei frequentava con soddisfazione e successo una delle più prestigiose università musicali americane e voleva diventare una rock star. Poi, boom, si cambia. Sì, poi mi hanno chiesto di dirigere la banda della scuola e ovviamente ho rifiutato perché non, cioè, volevo fare rock, ero un rockettaro, questo non era adeguato. E niente, mi hanno detto allora basta, non puoi più fare musica. E in qualche modo mi è venuta questa cosa della longevità. Ho detto, devo assolutamente studiare longevità. E la ragione ovviamente era per la parte scientifica, che ovviamente insomma eccezionale, e poi anche la parte medica. Mi è venuto subito in mente che questa era la chiave per tutte le malattie, le principali malattie umane, e quindi non, in qualche modo strano, non ho mai avuto dubbi. L'invecchiamento era la mia strada e quindi mi sono iscritto a biochimica. Ed eccolo qua, Cuore Denari, e giovedì esce il suo libro La dieta della longevità, edito da Vallardi, che è un libro molto atteso e che avevamo già anticipato prima dell'estate, che raccoglie i risultati di questa ampia ricerca che lei ha condotto nel campo della genetica e anche della biologia molecolare, spinto proprio dal desiderio, come diceva lei, di trovare il modo per rimanere giovani e sani il più a lungo possibile. Mi piace sottolineare che lei nel libro, e così lo condividiamo subito con i nostri ascoltatori, lei spiega che noi questa sfida siamo in grado di vincerla sfruttando quella straordinaria capacità del nostro corpo di riparare e rigenerare se stesso. Quindi oggi a Cuore Denari noi facciamo un'anteprima dove lei ci parlerà delle strategie, sono per lo più alimentari ma non solo, che possono mettere il nostro corpo in grado di mantenersi sano per più tempo e quindi vivere in salute più a lungo, è corretto? Sì, questo corretto meccanismo. Abbiamo già chiesto naturalmente l'aiuto dei nostri ascoltatori. Allora, più che vivere a lungo, ci scrive Lucio da Milazzo, mi interessa essere sempre giovane, quindi tanta attività fisica che mi consente anche di bruciare un po' le calorie che introduce. Forse voleva scrivere 10.000, ecco. 10.000 calorie al giorno, speriamo di no, mi sembrano un po' tante, però lui dice me ne posso permettere tante, secondo lui. Un'altra indicazione arriva da Fabio, che ci scrive da Vicenza, e raccontandoci che sua nonna Bianca, classe 1913, quindi Deborah, tu sei la donna di denari anche dei conti, passeggia ancora con un po' di vino, rigorosamente rosso, ma il suo segreto, sicuramente la voglia di vivere, poi probabilmente avere un carattere di quelli che se casca il mondo forse neanche si volta a guardare cosa sta succedendo. Che cosa ne pensa di questi? Subito due contributi, a cui aggiungo anche quello di Luca, che dice bisognerebbe anche avere meno stress, essere un po' senza pensieri, no? Sì, intanto l'esercizio fisico sicuramente, ne parlo un capitolo del libro, però sappiamo che l'esercizio fisico non compete con la dieta e anche con queste diete a minima digiuno di cui parlo nel libro per quanto riguarda la longevità. Quindi importante, ma non così importante quanto la dieta in farti arrivare a 100 anni o 110 anni, come dico nel libro, sano. E poi la seconda persona chiedeva l'umore. Sì, l'umore è un po' quell'atteggiamento di prendersi, proteggersi, esatto. No? Come sì, questo, un po' di distacco dal mondo, diciamo. Sì, infatti questo diciamo che nelle popolazioni longeve, le popolazioni longeve tendono invece a essere molto attaccate l'una all'altra, quindi Okinawa, Loma Linda, tutte queste zone blu, cosiddette blu, tendono ad avere questa cosa molto sociale. C'è da dire che invece i centenari, quelli che hanno record longevità, tendono un po' a essere l'opposto. Ad esempio Emma Morano, che adesso è la persona più vecchia al mondo, che vive a Verbania, che sono andato a trovare diverse volte, lei ha proprio questo spirito così di non mi interessa, io vado avanti e questo... c'ho con le mie cose, c'ho le mie uova, i miei dolci, le mie passeggiate e questo mi basta. Ricordiamo quanti anni ha? Ricordiamo che ha quasi 117 anni. Incredibile. Quindi la donna, una bella vecchiettina. Ce la portiamo a Cuore Denari? Proviamo. Mi piacerebbe molto, ci facciamo raccomandare. Andiamo da Walter Longo. Andiamo a trovarla noi. Abbiamo tempo per sentire Giuseppe da Prato prima di dare la linea al nostro GR e poi parliamo del libro di Walter Longo, La dieta della longevità. Lui è un uomo Cuore Denari perché i proventi di questo libro verranno devoluti a questa fondazione per promuovere e sponsorizzare la ricerca di terapie alternative. Ne parliamo tra poco, ma prima Giuseppe da Prato, buongiorno Giuseppe. Sì, buongiorno, buongiorno. Allora, sua mamma a novembre compie 100 anni. 100 anni a novembre, sì, il 10 novembre. Tondi tondi. Auguri. Sì, tondi, grazie. E la sua dieta qual è? Che voleva suggerire? La dieta è semplicissima, mangia pochissimo. Cioè, la mattina, goccino di caffè e un biscottino, basta. Dopo, a mezzogiorno, una forchettata, ma a dittanto, di pasta. Sì. Il secondo lo assaggia, un altro pochino lo mette in un panino, si fa una specie di panino, sì. E la sera ne mangia la metà di quello lì. Poi io gli do un po' di frutta verso le 9. Sì. Basta, finisce basta. Lì. Questa è la dieta della mamma di Giuseppe da Prato, compie 100 anni a novembre, della dieta della longevità parliamo con il massimo esperto. A tra poco, con le vostre ricette, i vostri dubbi, GR, torniamo insieme. Il segnale orario vi è offerto da... Il 56esimo Salone Nautico vi aspetta a Genova dal 20 al 25 settembre. Cuore e denari. A incontrarti fra 100 anni. Penso al mondo fra cento. Siamo tornati insieme qui a Cuore Denari. Oggi parliamo di longevità, di come attraverso scelte alimentari non solo riuscire ad arrivare a vivere più a lungo, ma soprattutto in salute. Ci aiuta oggi il professor Walter Longo, che nel suo libro La dieta della longevità, che ricordo uscirà giovedì, sostiene che capire come e perché invecchiamo non è altrettanto importante quanto capire come rimanere giovani. Per questo lei, professore, ha coniato un termine, juventologia, che non ha niente a che fare con i gobbi, ma è la scienza che studia e spiega come rimanere giovani. E l'alimentazione è senza dubbio il primo e più importante fattore su cui possiamo intervenire per influenzare non solo la durata, come anticipavamo, della vita, ma anche la nostra salute. Allora, professore, ci aiuta un po' a raccogliere alcune informazioni. Lei scrive che la sua non è una dieta restrittiva, infatti include caffè, alcol, non prevede neanche l'astinenza dal sesso, c'è scritto sul libro. Inoltre, al contrario di quanto si potrebbe pensare, richiede che si mangi di più e non di meno, e soprattutto se sono anziane, quando si tratta di persone anziane. Allora, riprendendo un po' la telefonata del nostro ascoltatore che ci descriveva la dieta della sua mamma, prossima ai 100 anni, a compiere 100 anni, vuole fare un commento. Che cosa significa? Cioè, mangiare meno, mangiare di più, mangiare meglio? Sì, tutti pensano che quando si parla di dieta si parla di mangiare di meno. In effetti anche nel libro ho una figura dove faccio vedere che si può avere un piatto che è due volte più grande, pieno di verdure, io parlo di ad esempio 50 grammi di pasta, ceci e verdure, cioè quindi un piatto due volte più grande con meno calorie, con 800 calorie contro un piatto più piccolo con 1100 calorie, col piatto grande che ti fornisce comunque anche nutrienti di vario tipo, minerali, vitamine, eccetera, e il piatto piccolo che invece ti dà solo calorie e niente altro. Quindi insomma, queste sono un po' le gli errori che fanno tutti, e questi concetti di pensare che per avere diete di longevità devi essere ristretto e devi non mangiare più niente. In effetti mangi tanto, è un po' come si mangiava una volta. Allora, poi andremo naturalmente ad analizzare quello che io potrei raccontarvi come il manifesto della dieta della longevità, che è questo stile alimentare che il professor Longo, a cui il professor Longo è arrivato basandosi sui 5 pilastri della longevità, e quindi consultando e mettendo a confronto, intrecciando studi in diversi campi. Rispondiamo quindi in questo modo a Luca, che ci scrive: che tristezza vivere 100 anni mangiando come un pulcino, meglio un giorno da leoni che 100 da pecora. E glielo leggo insieme a Mauro da Genova, è un suo compaesano, che ci dà la definizione di dieta: una vita da malato per morire sano. Sì, tutte le volte che parliamo di una scelta alimentare che tuteli anche la nostra salute, metta in grado di mantenere il nostro benessere, di preservare il nostro organismo, viene subito fuori: e sì, però a me piace mangiare, e quindi sì, voi sì, mi fate mangiare poco, sciapo, e allora io... Sì, sì, questo è divertente. È un classico, no? È un classico e divertente, mi ricorda le pubblicità americane del Marlboro Man, no? Mm. Quindi Hollywood, cioè le compagnie di tobacco avevano un po' invaso Hollywood e facevano vedere tutti questi fumatori, attori fumatori, cercando di creare l'idea che fumando saremmo stati più felici. Poi in effetti il Marlboro Man è morto di cancro alla gola, e ci siamo resi conto del danno delle sigarette. Questa è un po' la stessa cosa, nel senso che si può mangiare tanto, però mangiare bene, non c'è assolutamente nessuna restrizione. Ci sono alcune cose, come può essere la sigaretta, ci sono alcune cose, la carne rossa, eccetera, e le alto livello di proteine che vanno eliminate, però... Ad esempio nel libro parlo di queste 5 zone di altissima longevità, e tutte hanno in comune questa dieta. Nessuno gli è mai andato a dire devi mangiare così, ad esempio Okinawa o Loma Linda o la Grecia o certe zone della Calabria. Sono diete che questi centenari hanno fatto sempre, sono molto contenti di farle. E per caso queste diete li hanno portate a questa longevità record. Quindi sì, allora 800 24 00 24, andiamo a quello che definiamo un po' il manifesto della dieta della longevità. Se lei è d'accordo, riprendiamo i 10 punti del decalogo rapidamente, così lei ce li commenta e ce li spiega per bene. Primo punto: adottate una dieta vegana e pescetariana, un'alimentazione che si avvicini il più possibile a una dieta al 100% a base vegetale, quindi legumi, ortaggi, frutta e di pesce, cercando di limitare il consumo di pesce a 2-3 pasti alla settimana ed evitando naturalmente quello contenente alte percentuali di mercurio. Questo recita il primo punto. Quindi lei consiglia di mangiare pesce 2 volte alla settimana, ma di evitare la carne, quindi manzo, pollo e quant'altro no. Non devono essere inseriti nella dieta. Ci sono delle ragioni specifiche? Sì, ci sono delle ragioni specifiche. Abbiamo appena pubblicato in una collaborazione con Harvard un grosso studio su 120.000 persone, dove facciamo vedere che intanto queste diete che sono ricche di tutte queste carni sono in genere iperproteiche, quindi troppe proteine, perché è facilissimo mangiare tante proteine quando si mangia pollo, tacchino, carne rossa, eccetera. E poi abbiamo visto anche che le componenti, cosa si mangia, cioè le proteine vegetali, erano associate a una diminuzione della mortalità, e questo l'avevamo già fatto vedere qualche anno fa, l'abbiamo ripetuto adesso con uno studio molto più grande. Quindi, e poi quella era anche l'idea di non restringere, cercare di minimizzare proprio queste restrizioni, dire ad esempio ci sono alcuni libri molto popolari, quello di Colin Campbell, The China Study, che parlano di restrizione anche del pesce. I dati non fanno vedere, non supportano questo tipo di restrizione, quindi il pesce che invece è associato a molti benefici viene incluso, perché non avrebbe senso escluderlo. Ha parlato di proteine, al punto 2 del nostro decalogo, del suo decalogo, lei scrive proteine poche ma a sufficienza e indica anche quando mangiarle. Ci spiega che cosa significa, perché quando noi sentiamo 0,7-0,8 grammi di proteine per chilo di peso corporeo è facile andare in tilt. Sì, diciamo che adesso quasi tutti i cibi dietro hanno scritto i grammi di proteine. E quindi sembra una cosa complicata, ma in effetti uno la fa una volta per una settimana, più o meno si mangiano sempre le stesse cose e capisci cosa stai mangiando. Quindi se una persona di 50 kg dovrebbe mangiare circa 35-40 grammi di proteine al giorno, cercando di mangiarne 30 in un pasto, quindi quasi tutti in un pasto, perché questo ottimizza la massa, la costruzione, diciamo la sintesi delle proteine del muscolo. Hai capito, Deborah? Vedi, è bello, tutti insieme così il muscolo fa zap. Esatto, perché prende meno di 25-30 grammi non riescono ad attivare quei meccanismi che portano alla costruzione del muscolo. Quindi è un po' come se le mangi ma non le mangi, non vengono registrate. E ancora, lei in ogni punto fa una specie di postilla per le persone che hanno superato i 65-70 anni, li ha particolarmente, naturalmente, li coltiva, perché e scrive che anche per quanto riguarda le proteine, le persone che sono un po' più avanti negli anni dovrebbero aumentare leggermente la quota proteica, giusto? Sì, la quota proteica e anche la varietà, in senso che una persona di 80 anni può, secondo me, ritornare un po' a considerare più cibi, anche perché stiamo vedendo che è più difficile per una persona anziana assorbire e integrare questi componenti del cibo, inclusi gli aminoacidi. Quindi questa dieta pescetariana, che è ideale per fino a 65-70 anni, si possono permettere più violazioni dopo i 70 anni, per varie ragioni, incluso la nutrizione. Intanto le leggo qua e là dei messaggi. Danilo ci scrive se il nostro argomento ha qualcosa a che fare col furto delle fiale del DNA degli ultracentenari nell'Ogliato in Sardegna. Nel senso sì, perché ci ispiriamo sempre all'attualità, ma non l'abbiamo presa. Ce l'abbiamo qua, ce l'ha portata il dottor Longo. Lui. Allora, e ancora, per campare a lungo bisogna vivere tranquilli, senza eccessive preoccupazioni, se no non si campa a lungo. Mio zio è morto a 96 anni, mangiava fritti, fumava, usava un sacco di sale, ma era tranquillo, conduceva una vita bucolica. E ci scrive Alberto via WhatsApp e dice che gli anziani più numerosi sono in Sardegna. E noi andiamo ad Alessandra, che ci chiama da Cagliari, e poi andiamo al punto 3 del decalogo. Riducete al minimo i grassi e gli zuccheri cattivi e massimizzate i grassi buoni. Qua ci giochiamo la carta jolly, perché ci deve spiegare bene. Alessandra, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Benvenuta. Allora. Grazie, vi sto seguendo con attenzione. Molto grazie. È sempre interessante i vostri programmi. Grazie Alessandra. Allora, oltre ai complimenti, andiamo alla domanda. Sì. Allora, io vi sto chiamando perché quasi mai si parla del mio paese di origine, Seulo, che è un paese piccolo nella Barbagia omonima, che vanta un numero di centenari da record. Sono 20 centenari negli ultimi 20 anni. In questo momento il paese conta 900 abitanti e ci sono 4 centenari e ultracentenari viventi. Sì. Ecco, allora, quindi Alessandra dice, professor Longo, su Seulo, ma qua ce li abbiamo, Seulo, lei nel suo libro parla di Molocchio, perché è casa sua e centenari ce n'erano, Salvatore, ma possiamo fare un saltino ma anche Sardegna a Seulo? È famosa mondialmente, e infatti è una zona blu, è tra le più conosciute al mondo per queste caratteristiche, e viene studiata da diversi ricercatori sardi che ovviamente vanno contattati, ma sono sicuro che hanno un registry, che hanno tutti questi centenari dentro, quindi insomma vanno controllati al comune questi dati e poi divulgati, però penso che siano già abbastanza noti. Andiamo al punto 3. Riducete al minimo i grassi, gli zuccheri cattivi, massimizzate i grassi buoni, i carboidrati complessi. Concretamente questo cosa significa? Concretamente significa ovviamente minimizzare il burro, eccetera, lardo, eccetera, e massimizzare noci, salmone, olio d'oliva. Questi sono grassi buoni. Questi sono grassi monoinsaturi, generalmente, o polinsaturi, che sono associati da tante pubblicazioni a riduzione delle malattie, aumento della longevità, quindi adesso siamo abbastanza sicuri del loro ruolo positivo e non negativo. E questo un po' per rispondere a tutta questa confusione, dire ah, ma vi dicevate prima troppo, il grasso fa bene, poi il grasso fa male, gli zuccheri fanno bene, poi male, eccetera. Quindi insomma bisogna capirne abbastanza per saper distinguere. Quindi i carboidrati ad esempio fanno bene, ma gli zuccheri fanno male. Cioè i carboidrati sono contenuti nelle verdure, sono contenuti nei cibi integrali, eccetera, quelli sono da massimizzare. Gli zuccheri anche nascosti in vari cibi, ma anche gli zuccheri poi nella frutta, ad esempio si è parlato per decenni di frutta e verdura, quando la frutta è piena di zucchero. E quindi va bene la frutta, ma però non è da come... privilegiare la verdura, più verdura che frutta. Esatto, nelle 5 porzioni di frutta e verdura che sono consigliate, 3-4, lei dice addirittura 4-1, sì, sì, sì, sì. 3-2 me la passa. Sì. Dai, vedi che però... Guarda che adesso arriva la domanda del giorno sul solito argomento, lo sai? Dai, quale? 5 porzioni di frutta o di verdura. Allora, poi vorrei andare anche a così aprire un po' il tema dell'integrazione. Lei scrive di non farsi mai mancare nutrienti come gli omega 3, le proteine, la vitamina B12, lo zinco e il calcio. Nel caso vanno integrati. Ma è un consiglio per tutti? Bisogna fare prima vedere se siamo in carenza? Qual è il segreto, insomma, per vivere a lungo? Diciamo che se prendiamo 100 persone, questo sono lavori che ha fatto Bruce Ames e altri negli Stati Uniti, se prendiamo 100 persone probabilmente 70-80 hanno carenze di qualcosa, che sia vitamina D, che sia B12, che sia zinco, che sia ferro. E quindi la cosa ideale è, ovvio, mangiare, nel libro c'è tutta una sezione che parla delle principali carenze e dei cibi che poi contengono questi nutrienti, quindi mangiare così, ma poi anche probabilmente un multivitaminico. Lo so che questo sembra un po' un'americanata, però dice da solo, vedi? Sì. Il multivitaminico ogni 2-3 giorni, giusto per assicurarsi che non ci sia quella deficienza. Ad esempio molte donne che iniziano a mangiare insalate e basta non si rendono conto che poi diventeranno deficienti nella B12, e quindi insomma questi sono molto molto comuni questi problemi, e con un multivitaminico ogni 3 giorni si evitano. Allora, per mio marito che è boscaiolo, ci scrive un'amica, Manu, questa è la quantità di proteine, aumenta? No, la quantità di proteine non aumenta, perché in effetti è stato visto che oltre a un tot a quelle proteine, questi 0,8 grammi per chilogrammo, quindi se lui pesa 70 kg si parla di 50 grammi di proteine, oltre a quello non c'è un vero beneficio. E in effetti oltre ai 30 grammi che dicevo prima in un singolo pasto, se uno invece di 30 ne mangia 50, questo è stato testato negli uomini, non cambia niente, e quindi il resto degli amminoacidi vanno diciamo eliminati e non hanno nessuno scopo. E a proposito di proteine animali, lei nella sua dieta suggerisce di consumare solo pesce 2 volte alla settimana e quindi no carne, mentre un ascoltatore scrive: mia zia 99 anni, l'anno scorso si è spenta nel sonno, la sua famiglia ha da sempre una macelleria, lei in tutta la sua vita ha mangiato carne 2 volte al giorno. Sì, sì. E così aggiungo, sì, molti ascoltatori che mi scrivono sempre: mio nonno è morto a 100 anni, ha mangiato, sì, fumato, sì, usava fritti, si è tolto tutte le voglie e ha vissuto felice e sano fino a 100 anni. Sì, questo è il classico errore. È un po' come dire: io ho un amico che va ai 200 all'ora e non è mai morto, non ha mai fatto un incidente, e quindi consigliare a tutti di andare ai 200 all'ora. Cioè avere una persona che magari così fortunata e brava di poter andare a 200 all'ora e non fare incidenti non vuol dire che dobbiamo andare a 200 all'ora. E tra l'altro, ad esempio, Emma Morano, che adesso mangia 3 uova al giorno e anche carne, intanto viene fuori che 40-50 anni fa, quando gliel'ho chiesto, mangiava tanti minestroni. E quindi è da 20-30 anni che mangia molto più così, con le uova e carne. E poi quando abbiamo chiesto nella famiglia a che età erano morti, era 102 anni, 98, 97. Ah, codice quindi genetico qua era. Sappiamo che se geneticamente hai questo tipo di protezione, puoi fare un po' quello che vuoi. Magari, cioè, potenzialmente puoi fare un po' quello che vuoi. Allora, spesso noi sentiamo dire che dovremmo fare dei piccoli pasti 5-6 volte al giorno. Invece lei raccomanda di fare due pasti e uno spuntino. E di limitare le ore in cui mangiamo. Quindi ci dà anche degli orari. Sì, sì, io raccomando di fare due pasti e uno spuntino per chi, come la maggior parte delle persone, tende a prendere peso o è sovrappeso. E invece i tre pasti classici più spuntino per chi non ha questi problemi o per gli anziani. Quindi questa è una regola che io uso da anni, che faccio usare a centinaia di persone da anni. E poi il time restricted feeding, che è una cosa tirata fuori da Sachin Panda, americano, che tra l'altro oggi mi è venuto a trovare qui a Milano, e Sachin ha fatto tutti questi studi dove fa vedere che intanto le persone, grazie un po' a queste cose, questa idea di fare 5-6 pasti al giorno, mangiano per 16 ore al giorno. E quando ha portato queste persone che avevano problemi metabolici e di sonno, eccetera, da 16 ore al giorno a 11-12, quindi dalle 8 del mattino alle 8 di sera o dalle 8 del mattino alle 7 di sera, hanno migliorato la loro abilità di dormire, hanno migliorato la loro salute metabolica. Quindi tante di queste persone erano sulla strada di diventare diabetica. Quindi se facciamo colazione alle 7, la cena dovrebbe essere alle 19. Bisogna mangiare entro 12 ore al giorno, quindi se parti alle 9, poi finire alle 9, tenerti a 3-4 ore comunque dal momento in cui vai a letto. Questa è una regola abbastanza solida, neanche tanto difficile da... vedo già le facce. No, pensavo ieri sera che ho mangiato dopo la palestra alle 9:15, avendo fatto colazione alle 7, e quindi già purtroppo certe abitudini di vita necessarie, tipo l'attività fisica che necessariamente devo fare dopo il lavoro. Non sono regole. Però da, non è, cioè, sono non è regole, tutta la settimana. Sì, se uno lo fa due volte alla settimana e mangia per 13 ore, non cambia moltissimo. E la tendenza a farlo 6-7 volte la settimana e mangiare per 14-15 ore, questo è problematico, sì. Allora, professore, nel suo libro, lei naturalmente, una prima parte del libro è dedicata alla dieta della longevità, ma parla anche della dieta mima digiuno. Ci sono delle novità, nel libro racconta bene l'attività, il ruolo preventivo che la dieta mima digiuno svolge nei confronti di molte malattie, l'etichettiamo come malattia del benessere, ma lei parla di naturalmente di diabete, parla di tumori, la prevenzione per le malattie neurodegenerative, a cui dedicheremo sicuramente, se lei sarà ancora in Italia, una puntata. Ma prima di salutarla, per soddisfare proprio le richieste di chi le chiedeva cosa si potesse mangiare durante il digiuno, lei ha fondato un'azienda che, in parte col patrocinio del National Cancer Institute, ha sviluppato diete mima digiuno clinicamente testate, destinate inizialmente ai pazienti oncologici, poi a tutti. Lei ha reso pubblica la sua intenzione di donare il 100% delle sue azioni dalla società alla fondazione, e dalla società infatti riceve solo un piccolo rimborso spese annuali. Si impegna in prima linea per assicurare che i prodotti dell'azienda da lei fondata siano accessibili al maggior numero possibile di persone, che un giorno lo diventino per tutti, quindi gratuiti. Per questo, in un certo senso, Deborah, dicevo, è un uomo cuore denari, perché sì, anche il ricavato dei libri andrà proprio alla fondazione. Sì, spesso si pensa a queste società, cioè io non l'ho fatto per guadagnarci, ma perché mi sono reso conto, quando abbiamo iniziato gli studi clinici sui pazienti di cancro, che tutti mi chiedevano cosa posso mangiare, e che l'oncologo ovviamente voleva qualcosa che era esattamente quello che era stato testato clinicamente. Nessun oncologo al mondo voleva mettersi a dare consigli di dieta al paziente. Quindi bisognava standardizzarla, l'abbiamo fatto, adesso sarà in Italia, la società si chiama El Nutra e i prodotti saranno disponibili a elnutra.it e niente, quindi questo speriamo va fatto col medico o col nutrizionista, quindi va fatto non il fai da te, quindi per rispondere a chi aveva ascoltato alcuni suoi interventi e ha improvvisato una dieta mima digiuno fatta un po', no? Un fai da te, e alcuni ascoltatori scrivono: certo, ho avuto dei vantaggi, però ecco, sottolineiamo, professor Longo, che la dieta mima digiuno non va interpretata senza il consiglio del medico. Sì, quindi medico e nutrizionista, prima analisi del medico, se la persona è sana o relativamente sana, poi tutto passa al nutrizionista che poi segue la persona, se invece ci sono delle malattie, il medico poi deve decidere se queste diete, che sono ipocaloriche, con bassi livelli di proteine, alti livelli di grassi, bassi livelli di zuccheri, sono adatte. Ad esempio, un diabetico, una persona anoressica non lo può fare, un diabetico che riceve insulina o metformina non lo può fare, cioè non lo può fare nel momento in cui prende farmaci. Queste sono, e addirittura è pericoloso per un diabetico che riceve insulina. Quindi queste sono le cose da e noi torneremo, professore, a parlare degli effetti preventivi della dieta mima digiuno, delle diete mima digiuno per diverse malattie di cui lei parla nel libro, che non abbiamo regalato perché ne abbiamo alcune copie, ma che regaleremo nel corso della trasmissione. Professor Longo, alla prossima allora, a presto, grazie. Complimenti. Grazie, e buon lavoro. Grazie a voi. Adesso abbiamo la borsa, poi torniamo con i temi del giorno, la nostra casa, la sua sicurezza. Che cos'è il fascicolo di fabbricato? Lo sapete, raccontatecelo. E poi c'è una grande compagnia assicurativa italiana che si lancia sul mercato delle polizze contro le calamità a metà prezzo. Trovata commerciale o c'è qualcosa di più? A tra poco. Vuoi diventare autore, creatore di format, redattore e conoscere i segreti del web, della pubblicità e del marketing radiofonico? Sintonizzati e frequenta il Master in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. A tua disposizione i massimi esperti del settore radio per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it e rds.it. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Allora, lo abbiamo detto anche ad inizio trasmissione, parlando dell'iniziativa degli agricoltori italiani che venderanno il kit con gli ingredienti per fare una buona matriciana, poi devolveranno tutto il ricavato alle aziende agricole del settore, soprattutto colpite in quest'area del sisma. Oggi noi ritorniamo anche nella parte di denari sul post-sisma, sulla nuova tragedia che si è abbattuta sul centro Italia il 24 agosto. Perché? Perché intanto, come sapete, si sta cercando di ridare un tetto alle migliaia di sfollati, ma si è fatto particolarmente serrato in queste settimane il dibattito sulla sicurezza delle nostre abitazioni. Noi ne abbiamo parlato, Nicoletta, tu non c'eri in una puntata del nostro rotocalco estivo, ma che cos'è quest'estate? Abbiamo ricordato qualche cifra: 7 edifici su 10 in Italia sono a rischio se colpiti da un terremoto e la maggior parte delle case in Italia è costruita in assenza di normative antisismiche. Anche gli edifici costruiti negli ultimi anni spesso hanno ceduto alla violenza delle scosse perché in tutta probabilità non hanno seguito a regola d'arte le evoluzioni tecnologiche che consentono di offrire una protezione adeguata contro i movimenti tellurici, e oggi tutto il nuovo viene costruito secondo gli obblighi antisismici, però in realtà la sicurezza al 100% che reggano tutti di fronte ad un evento sismico particolarmente importante non ce l'abbiamo. Allora, stamattina ne parleremo cercando, se possibile, di offrire informazioni concrete a quelle persone che magari stanno accarezzando da un po' l'idea di conferire maggiore sicurezza alla propria abitazione e adesso, sollecitati da questo nuovo dramma italiano, provano a fare un check-up alla propria casa. Saluto e ringrazio per essere con noi l'ingegner Giovanni Cardinale, consigliere del Consiglio Generale degli Ingegneri. Buongiorno, ingegner Cardinale. Buongiorno. E io faccio una domanda ai nostri ascoltatori, vediamo se rispondono al domandone. 800 24 00 24, per provare subito a mettervi in contatto con noi. Voi lo sapete che cos'è il fascicolo del fabbricato? E soprattutto, ce l'avete a casa? Chissà cosa risponderanno, Nicoletta. Speriamo di avere una promozione generale rispetto a questo esame. Ingegner Cardinale, il nostro tema di stamattina: come può fare un cittadino a capire se il proprio edificio è sicuro o no, o se rientra la propria casa in quel 30% di edifici considerati non a rischio? Mi verrebbe da chiederle, a lei come consulente, come professionista, ha avuto in queste settimane magari proprio una richiesta di consulenza in questo senso da parte di delle famiglie, da parte degli italiani, da parte del suo giro di clientela? Intanto vi ringrazio molto per questa occasione, e anche perché, diciamo, nella sua premessa ha davvero tratteggiato alcuni termini che devono iniziare a entrare nella nostra cultura, no? Lei ha parlato di sicurezza 100% e ha anche detto che è ovviamente impossibile ottenerla, e quindi questo riaprirebbe un dibattito che ha interessato anche molti sociologi, Bauman, Beck, perché il vivere in condizioni di incertezza e cercare di capire che non è possibile avere l'arroganza del credere di poter prevedere tutto è un fenomeno che, diciamo, interessa vari aspetti della vita delle persone, e non solo quando si parla di sicurezza della costruzione. In questo caso è ovvio che il tema grosso di cui tutti parlano è il tema della prevenzione, ma il tema vero è la cultura della prevenzione, che è antagonista dell'emergenza e che è pensare a un problema in tempo di pace. Ormai è nella cultura di tutti modificare le prestazioni di un serramento perché ne vedo subito i benefici, risparmiando la bolletta del gas o dell'energia elettrica. Il terremoto è un nemico invisibile, non sappiamo quando arriverà, sappiamo solo che ci sono probabilità che in certe zone avvenga questo evento con probabilità appunto più elevate che in altre zone. Non ne sappiamo le caratteristiche, perché tutti noi parliamo di magnitudo, ormai sono termini che abbiamo in testa, ma per esempio la direzione con cui un terremoto colpisce un edificio è anche la dimostrazione del perché un edificio resti in piedi e quella accanto invece possa crollare. Allora dico, questa cultura della prevenzione, che è principalmente cultura della conoscenza e della consapevolezza, ci porta davvero in un'analogia con le scienze mediche, con cui tutti magari hanno più dimestichezza, perché parliamo di diagnostica invasiva, di diagnostica non invasiva, e il fascicolo del fabbricato si pone questo obiettivo. E noi, come Consiglio Nazionale Ingegneri, anche come Rete delle Professioni Tecniche, abbiamo consegnato una proposta al Presidente Renzi in occasione della grande audizione di partecipazione che c'è stata nei giorni passati, in cui abbiamo, proprio mutuando le scienze mediche, individuato tre step, perché uno va, si fa una semplice analisi del sangue, poi scopre che c'è un parametro non chiaro e approfondisce. Ecco, l'approccio deve essere lo stesso. L'approccio è fascicolo del fabbricato, un po' come un esame del sangue della propria casa. Io l'avevo definito un po' la carta d'identità, il biglietto da visita, ma abbiamo un'ulteriore possibilità di definirlo. È certamente una carta d'identità, però io dico che è la proposta appunto di tre step, proprio perché questa cosa va graduata per vari motivi: livello di pericolosità, ma anche livello di disponibilità economica e previsione di investimento scalettato negli anni. E quindi iniziare da un primo livello di conoscenza diciamo più semplice, più speditivo, e all'esito di questo procedere agli eventuali approfondimenti. Ingegner Cardinale, io devo andare molto al concreto della trasmissione. Oggi non abbiamo moltissimo tempo, ma sono certa che avremo tutta l'occasione di ritornarci ed approfondire ogni singolo aspetto. Ma se io le chiedessi, il fascicolo di fabbricato ce l'hanno tutte le case italiane, e se io non ce l'ho perché abito in un condominio, cosa devo fare? Sono certa che l'amministratore di condominio dell'edificio in cui abito ce l'abbia, o devo darmi da fare per cercare il duplicato? Esistono i duplicati? Quindi molte domande a cui le chiedo una risposta secca. Le do una risposta secca: il fascicolo fabbricato praticamente non ce l'ha quasi nessuno, comunque è raro che qualcuno, qualche privato cittadino lo abbia, perché appunto non c'è questo tipo di cultura, che invece va fatta anche su richiesta dei committenti e va fatta crescere dalle organizzazioni professionali, industriali, costruttori, dalle vostre trasmissioni, nella coscienza e consapevolezza di tutti. Laddove esistesse, perché ci sono gruppi immobiliari o gruppi che hanno comunque patrimoni industriali, che hanno fatto anche per esempio a seguito del terremoto dell'Emilia, molte aziende e molte industrie si sono, diciamo, affrettate ad avere questo fascicolo. Il duplicato non esiste, ma esiste oggi il processo di digitalizzazione, quindi la possibilità di smaterializzare l'informazione certo. E quindi di prevenire anche il danno dell'eventuale perdita certo. dell'informazione. Comunque, se in sintesi dovessimo indicare le tre informazioni fondamentali sulla casa che sono contenute in questo fascicolo, quali sono, ingegner Cardinale? Beh, sono certamente la sua storia costruttiva, certamente la lettura dell'organizzazione strutturale e la conoscenza materica e degli elementi costruttivi. Queste cose si possono fare con vari livelli di approfondimento, ma già con un primo livello di approfondimento speditivo possiamo sapere se abbiamo urgenze o viceversa possiamo avere un po' più di tempo di programmazione. Torneremo su questo argomento. Io adesso vado avanti con un altro aspetto legato alle conseguenze del sisma, e cioè la domanda che si sono fatti molti italiani, ma non solo, sulla eventualità di assicurare la propria casa contro le calamità di questo tipo. Naturalmente non ce ne sono tante di famiglie italiane assicurate, per le imprese è diverso, ma qualcosa si sta muovendo, probabilmente perché l'industria delle assicurazioni si è di nuovo in maniera molto prepotente e dirompente sensibilizzata sull'argomento a seguito proprio del sisma del 24 agosto. Intanto, ingegner Cardinale, grazie per essere stato con noi. Noi andiamo adesso al traffico, poi pronti a sentire che cosa bolle in pentola tra le assicurazioni italiane per stimolare un po' gli italiani proprio su tutto questo. Tra poco. Cuore e denari. Naturalmente sono arrivate molte domande su come si fa ad ottenere questa diagnosi, sul livello di sicurezza del fabbricato, quanto costa, chi è in grado di fornirla. Carlo da Milano, io credo che una risposta univoca a tutti sia impossibile da dare, dipende dal tipo di abitazione che ha, dalle caratteristiche dell'edificio, dalla sua età. Io credo che il primo professionista da interpellare sia o un ingegnere o un architetto. Mi pare che un medico, Nicoletta, non sia il caso di interpellarlo, il medico dalla casa in questo caso. Magari se ti accendi il microfono, se vuoi interagire con me, è utile. Allora, in concomitanza con la discussione serrata sulla sicurezza delle case, si è riproposto anche vivacemente il dibattito sul numero limitato di edifici assicurati contro eventi calamitosi come i terremoti. Allora, sono state fatte spesso ipotesi negli ultimi anni per introdurre un sistema di tutela assicurativa obbligatoria facoltativa per i danni causati dai sismi. Alcuni governi hanno provato ad introdurre l'obbligatorietà della copertura, ma senza successo. È anche vero che nell'ultima puntata in cui ci siamo occupati di questo argomento molti ascoltatori ci hanno espresso la loro opinione sul tema e ci hanno detto: io ho chiesto al mio assicuratore, ma mi ha fatto capire che non è di loro interesse farmi sottoscrivere una polizza di questo tipo. Quindi diciamo che la penetrazione è ai minimi termini anche per questo argomento, un po' di resistenza a questa proposta commerciale da parte dell'industria. Noi siamo rimasti molto colpiti da queste segnalazioni, così come ci ha molto colpito la scossa al mercato che ha voluto dare il gruppo Generali. E se lo fa un gigante di queste dimensioni, c'è da scommettere che l'industria seguirà a ruota. Non voglio sentire e leggere commenti su adesso fate la pubblicità a Generali. C'è un'iniziativa molto importante che io voglio, come persona che divulga le notizie di carattere finanziario, la voglio conoscere fino in fondo. Allora, intanto saluto e ringrazio per essere con noi Massimo Monacelli, responsabile ramo danni e sinistri di Generali Italia. Buongiorno, dottor Monacelli. Buongiorno a voi. Allora, grazie dell'opportunità. La vostra proposta prevede, sia per i clienti nuovi sia per quelli che hanno un'assicurazione sulla casa e prevedono di estenderla alle grandi calamità, la quota relativa al rischio terremoto verrà scontata del 50%. Allora io le chiedo subito: cosa è successo in queste settimane? Le famiglie hanno cominciato a chiedere più preventivi, oppure avete dimezzato le tariffe per puro scopo pubblicitario, commerciale, o perché avete scoperto che a dispetto del terremoto continuava a non esserci nessun interesse? Ma no, io direi intanto che il motivo che ha orientato questa nostra decisione nasce un po' prima del ultimo drammatico terremoto che ha colpito il centro Italia, e nasce dalla nostra vocazione, la protezione dei clienti dalle grandi avversità della vita è il cuore del nostro mestiere. Il tema delle calamità naturali è diventato sempre più frequente per numerosità e anche per gravità nel nostro paese, non solo nel nostro paese, penso che il ruolo degli assicuratori sia quello di interpretare le grandi trasformazioni che attraversano un'epoca e di dare delle risposte in termini anche di protezione delle persone e dei cittadini. Quindi l'iniziativa specifica nasce col ultimo terremoto e ha lo scopo di dare un contributo concreto nella sensibilizzazione. Ho sentito parlare prima opportunamente di cultura della prevenzione, di consapevolezza. Ecco, credo che noi assicuratori dobbiamo giocare un ruolo chiave, un ruolo più attivo nel creare questa consapevolezza. Quindi l'iniziativa è quella per il periodo che va da adesso fino a fine anno, quello di incentivare l'assicurazione sulla copertura del terremoto attraverso una contribuzione del 50% del premio che farà direttamente Generali. Tu pensa, sì Nicoletta, che ho fatto fare anche un preventivo a signori di Generali chiedendo di stipulare praticamente un facsimile di contratto per un cliente che abita a Milano ed una persona che invece abita ad Ascoli Piceno, Rieti, dove me l'avete fatto, dottor Monacelli? Sì, noi abbiamo Milano e abbiamo Ascoli Piceno, ecco. In questo momento abbiamo fatto due. Quindi Arquata del Tronto tipicamente, prendiamo sì, abbiamo preso due zone evidentemente molto diverse, si oscilla come prezzi, poi naturalmente è un prezzo indicativo perché va verificata anche la condizione del fabbricato, ci sono diverse variabili, però in media assicurare per la garanzia contro il terremoto un'abitazione di 100 metri quadri a Milano costa 100 euro all'anno, e si arriva fino ai 300 di Ascoli Piceno, essendo una zona naturalmente ad alto rischio sismico. Per me queste cifre sono indicative, al di là dello sconto della contribuzione che noi faremo in questo periodo, come si vede sono delle cifre complessivamente contenute. Colpisce molto il fatto che in Italia ci sia una così bassa copertura di abitazioni in un paese dove invece l'acquisto della casa spesso è il più grande investimento delle famiglie. Esatto, il problema è che diciamo che oggi le famiglie assicurano la casa solamente nell'ambito diciamo obbligatorio e soprattutto essendosi indebitate proprio per acquistare questa casa per un lunghissimo periodo di tempo, il mutuo oggi soffoca un po' il bilancio familiare, diciamo che tutto quello che viene visto come spesa extra viene accantonato, e poi c'è anche il grande tema dell'RC auto che è la grande che fagocita un po' tutte le potenzialità di spesa nell'ambito assicurativo della famiglia. Dottor Monacelli, certo. Le leggo questo messaggio di un ascoltatore: sono assicurato con una compagnia per il catastrofale, quindi per il terremoto, da diversi anni. Ho cercato però di cambiare per trovare qualcosa di più conveniente e devo dire che nel mercato non trovo niente di particolarmente interessante, ovvero la polizza che io ho fatto 4 anni fa ha un prezzo fortemente inferiore rispetto ai prezzi delle polizze di oggi. Le risulta questa tendenza? Cosa possiamo rispondere all'ascoltatore? I prezzi possono evidentemente variare da compagnia a compagnia, ma bisogna essere molto attenti nel valutare l'offerta assicurativa nel suo complesso, quindi è sempre importante rivolgersi ad un agente e comprendere bene quali siano effettivamente i contenuti della copertura, perché possono variare i massimali assicurati, possono variare le franchigie, le coperture, quindi il prezzo evidentemente risente molto del tipo di offerta assicurativa che viene prodotta. Quindi il consiglio che posso dare è quello di rivolgersi a persone competenti che possono aiutare ad interpretare il contenuto della polizza assicurativa, tenendo conto che il prezzo è sempre il riflesso di un contenuto assicurativo che viene proposto. Leggevo un ultimo commento, dottor Monacelli, poi la salutiamo, di quello che succede in Francia, dove c'è una legge dell'82, le garanzie sulle catastrofi naturali sono un'estensione in qualsiasi contratto di assicurazione, quindi le compagnie non si possono rifiutare di sottoscrivere questo tipo di polizze in qualunque zona del paese, anche quelle più a rischio. Allora, secondo lei cambierà un pochino qualcosa anche in questo mercato italiano? Che tipo di spirito c'è dietro a questa vostra iniziativa, anche quella di dare, come dicevo all'inizio, una bella scossa un po' a tutte le vostre colleghe? Sì, ma io direi che almeno questo è l'opinione, l'orientamento di Generali Italia. Come dicevo prima, noi dobbiamo giocare un ruolo più attivo nella sensibilizzazione del mercato, nella cultura della prevenzione e non solo diciamo nell'assicurazione tradizionale dell'auto, come è stato detto prima. Quindi il nostro obiettivo è certamente questo. Noi così non obbligatoriamente come prevede la normativa francese, ma noi assicuriamo tutti in Italia, certo, in qualsiasi grazie, zona. Grazie, grazie Monacelli. Purtroppo devo chiudere, ma ci ritorneremo su questi argomenti. Saluto tutti gli ascoltatori che dicono che abbiamo fatto la bella pubblicità generale. Vabbè, pazienza, non importa, pazienza, domani. Pazienza, domani.